Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Eccoci qua, puntuali come le tasse. Abbiamo avuto temperature estive fino a 10 giorni fa in gran parte d'Italia e poi ci siamo risvegliati da questo piacevole torpore che avremmo avuto piacere ci accompagnasse almeno fino a Natale. Altro che, il gelo ci è piombato addosso all'improvviso e molte famiglie hanno dovuto accendere in fretta e furia il riscaldamento. In molte città si aspetta ancora il via libera del comune, ma ovunque in questo periodo ci si pone la questione. Sono stati fatti al nostro impianto di riscaldamento i controlli necessari? Ecco il punto dolente che ogni anno contrappone associazione dei consumatori e tecnici delle manutenzioni con il Ministero dello Sviluppo Economico, che forse dovrebbe fare maggiore chiarezza sulla questione. E allora, ogni quanto tempo dobbiamo fare questo benedetto controllo della caldaia, la revisione, il controllo dei fumi? Quanto ci costa questa manutenzione ordinaria, tenendo conto che secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori, controllo e manutenzione a parte, una famiglia media spende ogni anno di riscaldamento fra gli 800 e i 1500 euro. Quali sono gli standard di sicurezza irrinunciabili? E allora stamattina ne parliamo con i nostri interlocutori. Questa è un'accoppiata molto felice che mettiamo insieme ogni anno in questo periodo. Buongiorno a Pieraldo Isolani, responsabile settore energia e ambiente di Adiconsum. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. E bentornato. Bentornato anche a Luca Falco, vicepresidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato. Falco, buongiorno e bentornato anche lei. Buongiorno a tutti, solo una piccola rettifica, sì. Sono presidente nazionale. Abbiamo cambiato carica da un anno a questa parte, c'era sfuggito. È cambiato poco in realtà. Benissimo, e vabbè, comunque insomma ha fatto bene a ricordarcelo, grazie e soprattutto complimenti. Allora, io vi ho ricordato il tema di cui parliamo, vi ho presentato gli ospiti, adesso sta a voi anche animare la nostra trasmissione all'800240024 oppure ci potete scrivere i vostri messaggi al 349-238-6666. Tra l'altro ci piacerebbe anche che il presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato ci desse anche qualche dritta su come scegliere un tecnico affidabile, che è quella figura appunto indispensabile che ci deve fare la manutenzione di cui parliamo questa mattina, perché poi se le discussioni con le associazioni dei consumatori nascono è perché molto spesso a volte abbiamo l'impressione di fare delle spese che sono del tutto inutili per un piccolo controllo che può durare 5 minuti, 80 euro se ne vanno come niente, e quindi anche lì insomma ci piacerebbe capire come le associazioni di categoria vedono tutto questo. Vi ho ricordato i numeri, adesso andiamo ad altri numeri prima di cominciare la nostra discussione sul tema di oggi. I numeri della borsa un po' ballerina stamattina. I listini europei sono partiti con l'intenzione di consolidare i rialzi che erano stati messi a segno ieri, poi hanno perso tutto, sono arrivati a perdere mezzo punto percentuale, adesso stanno di nuovo riprendendosi, anche se abbiamo ancora in prevalenza il segno meno su tutti gli indici. Parigi meno 0,19, Francoforte meno 0,07, Londra meno 0,15%, Milano perde lo 0,32%. Tra l'altro, visto che parliamo oggi di riscaldamento, sappiate che il petrolio ieri ha ritoccato di nuovo gli 80 dollari al barile, la benzina se n'è subito accorta, oggi ritraccia leggermente fra i 78 e i 79 dollari. Tutto questo è colpa, come sapete, del dollaro che continua a scendere. Sull'euro siamo a 1,4972 in questo momento. A Piazza Affari, acquisti sull'ottomatica più 2,70, il titolo era partito con un rialzo di 5 punti perché farà un aumento di capitale di circa 350 milioni di euro e dunque curiosamente il mercato peraltro premia questa prospettiva. Di solito su un ricorso al mercato non è che gli operatori e gli investitori siano molto felici, quando le società lo fanno invece sull'ottomatica l'atteggiamento è stato diverso. Banca Popolare di Milano, altro buon titolo stamattina, più 1,30, Atlantia più 1,16, Telecom premiata da Goldman Sachs sta guadagnando un punto, abbiamo un rialzo dello 0,8% su Impregilo e Tenaris. Segno meno invece su CIR, che sta perdendo il 2,79%, bocciata dagli analisti di Chevron, Unipol meno 1,97, un calo di 1,5% su Prismian e Finmeccanica. Questi sono i temi di borsa del giorno. Il tema di Salva Danaio invece è la manutenzione della nostra caldaia. L'autunno è ormai arrivato ed è tempo per le famiglie italiane di accendere gli impianti di riscaldamento. E contestualmente, come sempre, è bene prestare attenzione alla sicurezza degli impianti. Ogni quanto tempo, per esempio, va fatta la revisione della caldaia? il decreto che regola i tempi e le modalità delle verifiche degli impianti stabilisce che per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW, quelli condominiali centralizzati ad esempio, i controlli vanno effettuati almeno ogni anno, che si tratti di impianti alimentati a combustibile liquido, solido o a gas. Invece, per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, cioè quasi tutti quelli autonomi di appartamenti di dimensioni medie, l'appuntamento per la revisione è ogni 2 anni, sia per gli apparecchi installati da più di 8 anni, sia per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto, installati in locali abitati. Per gli altri impianti con potenza inferiore a 35 kW, come ad esempio le caldaie a focolare aperto posizionate in locali non abitati, il decreto sancisce l'obbligo di controllo addirittura ogni 4 anni. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Stavo già controllando come già dal centralino ci fosse una certa vivacità in termini di, appunto, chiamate pronte, di ascoltatori pronti ad intervenire. Vedo già anche numerosi messaggi. Allora, prima di cominciare a far discutere tra di loro, so che lo fanno in maniera sempre molto pacata, Pieraldo Isolani e Luca Falco, volevo cominciare con Luca Falco per chiedergli un po' di chiarezza sulla normativa. Peraltro so che siete stati convocati di recente dal Ministero dello Sviluppo Economico, perché da entrambe le parti, sia i professionisti del settore sia che le associazioni dei consumatori, hanno chiesto maggiore chiarezza sulla tempistica con cui queste manutenzioni vanno fatte, e credo che forse non abbiate ottenuto esattamente il risultato che cercavate da questo incontro. Falco, cominciamo con lei. Sì, allora abbiamo tutti i soggetti, associazioni dei consumatori e associazioni di categoria dei manutentori, sono stati appunto convocati dal Ministero e si è aperto un tavolo tecnico per vedere di poter riuscire a dare una comunicazione ai cittadini che fosse chiara. Chiara e semplice, perché per un tecnico diventa semplice, per un cittadino che vorrebbe solo poter pigiare un bottone e avere i radiatori caldi diventa a volte difficile riuscire a orientarsi nelle leggi. Quindi c'è stato un ottimo clima di collaborazione all'interno di questo tavolo, solo che noi chiediamo e auspichiamo che il Ministero dia una comunicazione che non sia solo relativa all'efficienza energetica, che è seppur importante e fondamentale per le tasche dei cittadini, ma soprattutto anche per la sicurezza. E credo che il Ministero accetti e indichi in questa comunicazione che dovrà uscire anche importanti passi relativi alla sicurezza. Magari non completi o esaustivi come chiedevamo noi, perché comunque la legge di cui si parla è una legge sul risparmio energetico, però essendo che l'allegato che il manutentore firma porta questa scritta: l'impianto ai fini della sicurezza può funzionare sì, no, e poi viene messo un timbro, una firma, per noi la sicurezza è il primo punto ed è il punto fondamentale per i cittadini, su cui va fatta soprattutto una comunicazione puntuale e precisa per evitare in buona fede di fare incorrere i cittadini in errori. Certo, Pieraldo Isolani, a Di Consum vi siete mossi sulla stessa direzione, in questo caso con gli artigiani di settore, quindi installatori e manutentori. Noi, tra l'altro, Falco citava la legge sulla certificazione energetica degli edifici, che poi, come dire, disciplina anche la questione di cui parliamo questa mattina, il decreto legislativo 192 del 2005, che quando uscì, mi ricordo, creò un vespaio di polemiche perché ci furono molte interpretazioni differenti sulla tempistica della manutenzione. E in ogni caso, voi da questo incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico che cosa vi aspettavate? Siete usciti contenti? Che cosa vi aspettate da questa comunicazione che prima o poi dovrà essere diramata? Dunque, intanto cominciamo a precisare che ieri il responsabile del Ministero ha mandato a tutte le associazioni un testo definitivo, per cui noi lo stiamo mettendo sul nostro sito, e quindi è un testo che secondo noi è abbastanza chiaro, perché dice una cosa molto semplice, che i controlli obbligatori per l'efficienza energetica sono quelli che anche voi avete detto nella presentazione del problema, e su questo non si discute, cioè nel senso che per le caldaie più nuove fino a 8 anni di anzianità ogni 4 anni e oltre ogni 2 anni, poi sono quelle chiuse eccetera eccetera, gli altri. Quindi su questo non ci sono discussioni. La discussione avviene se questi controlli sono anche validi e sufficienti per la sicurezza. Ora, noi riteniamo di sì, nel senso che se tutti i cittadini italiani facessero con questa periodicità, ogni due anni le caldaie più vecchie, ogni quattro anni quelle più nuove, i controlli che sono previsti obbligatori per l'efficienza energetica, e durante questi controlli si fanno anche gli interventi e le verifiche necessarie per controllare che gli impianti siano sicuri, se si fanno tutte queste cose durante questi controlli obbligatori, allora c'è, a nostro parere, una situazione di sicurezza al 100% non è mai possibile, perché dopo 10 minuti che uno è intervenuto c'è un nido in cima alla canna di scarico. Ci sono delle situazioni estreme. Però, per quello che può essere una situazione media da questo punto di vista, pensiamo che sia sufficiente. Isolani, posso chiederle, a casa sua quanti anni ha la sua caldaia, la casa che utilizza per la sua abitazione, ogni quanto tempo fa fare il controllo? Guarda, io abito in un condominio, e quindi il nostro controllo avviene ogni anno, regolarmente ogni anno, e quando perché ovviamente c'è un impianto centralizzato. No, vorrei aggiungere un'altra cosa, se mi permette. Noi come per capire anche se le associazioni dei consumatori ne fanno puramente una questione, come dire, economica, o quanto sono sensibili anche le questioni della sicurezza che poi gli impiantisti e i manutentori sollevano. Ma le ho risposto, a nostro parere, e non solo a parere nostro, riteniamo che se i cittadini fanno regolarmente questi controlli e questi interventi per la sicurezza con queste periodicità obbligatorie, pensiamo che siamo ad un livello di sicurezza più che soddisfacente. Anzi, le dirò un'altra cosa. Noi abbiamo chiesto alle associazioni degli artigiani e comunque degli installatori, eccetera, eccetera, di fare proprio un accordo che preveda anche l'elenco delle operazioni che devono essere fatti durante questi controlli, ogni due, ogni quattro anni, e di stabilire anche qual è il tempo minimo che ci voglia per fare queste cose, in modo tale che ci sia chiarezza nelle operazioni da fare, periodicità stabilite, e tutti possiamo risolvere definitivamente questo contenzioso che sta ormai trascinandosi da sempre, praticamente. Esatto. Tra l'altro, Luca Falco, allora state dicendo la stessa cosa e io non riesco a capire, ne stiamo facendo una questione, come dire, di lana caprina? No, perché tra l'altro poi sulla questione della pubblicazione magari di un vademecum, su tutte le operazioni che vanno fatte, quanto dobbiamo spendere per le operazioni di base, eccetera, so che voi state lavorando da tempo come tecnici addetti ai lavori, per cui sarebbe sicuramente una cosa in più molto utile, però non è che la questione poi a voi non interessi. No, allora, intanto la comunicazione del Ministero, io ho ricevuto una bozza, non una versione definitiva, però a parte quello poi il Ministero ci dirà se era definitiva o meno. Comunque, riguardo alle statistiche degli incidenti, mi duole ricordare che il Comitato Italiano Gas, che è l'ente che in Italia, il CIG, raccoglie le statistiche di incidenti, attesta circa il 70% gli incidenti causati da carenza di manutenzione e controllo negli impianti di riscaldamento e negli impianti gas. Quindi purtroppo la carenza di manutenzione e controllo è ancora la prima causa di incidente per le famiglie italiane. Quindi, guardi Falco, devo andare in pausa adesso, quindi in soldoni, voi chiedereste che cosa? Di fare un controllo minimo annuale, in ogni caso, una manutenzione varia in funzione della situazione dell'impianto. Chiaramente negli impianti vecchi, l'impianto gas, l'allegato, dove prevede anche di verificare la tenuta dell'impianto gas, conviene farlo controllare una volta l'anno, ma conviene per la sicurezza. Poi l'efficienza energetica è un'altra cosa. È un altro discorso. Perché uno consuma poco, però è vivo. Quindi queste insomma sono le questioni sulle quali ancora vi confrontate, non dico scontrate, perché comunque il confronto avviene sempre in maniera piuttosto pacifica, e in ogni caso intanto cercheremo di capire adesso, dopo la pausa, su che cosa si scontrano invece i nostri utenti, i consumatori a casa, proprio in questo periodo in cui devono riaccendere gli impianti di riscaldamento e non sanno bene come comportarsi con il proprio impianto, per l'appunto. Eccoci ancora insieme a Salva Danai. Allora, l'autunno ci è ripiombato addosso, torniamo a parlare della manutenzione delle caldaie, perché ovviamente come mezzi di informazione riprendiamo questi argomenti, e tema che necessita a quanto pare ogni anno degli stessi chiarimenti. Intanto il tema della periodicità della manutenzione della caldaia è in senso in termini generali, disciplinata appunto dal decreto legislativo 192 del 2005, quello sulla certificazione energetica degli edifici di cui abbiamo parlato tante volte, ma la periodicità della manutenzione è decisa anche dall'installatore e dal costruttore della caldaia. Confliggono questi elementi? Stamattina stiamo cercando di capirlo con Pieraldo Isolani, responsabile settore energia e ambiente di Adiconsum, e Luca Falco, presidente nazionale dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato. E adesso cominciamo anche ad animare la trasmissione con le richieste dei nostri ascoltatori, cominciando con Francesco dal Sud Italia, da Cosenza. Francesco, benvenuto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Premetto che sono un ingegnere libero professionista che si occupa di sicurezza nel settore impianti, quindi ho un'esperienza di prima mano, sì, fatta sul campo. Vorrei fare questa domanda. Atteso che è importante il tema di oggi, è importantissimo, ma sembra anche gli altri circostanziati alle caldaiette, cioè le caldaie sotto i 35 kg, sì, perché c'è sempre una trascuratezza, che si passa il termine, totale sulle caldaie che sono poco più grandi, oltre i 35 kW, le quali devono essere, come gli ospiti sanno, senz'altro, sottoposte a denuncia e a sicurezza, a dispositivi di sicurezza. Sono completamente abbandonate queste caldaie, parlo delle caldaie dei condomini. Sono molto diffuse, ecco, esatto, infatti mi chiedevo dove fossero installate, quindi sono quelle che alimentano praticamente i grandi condomini. E vorrei sapere il parere degli esperti, cosa si fa alle sezioni di categoria. Gli installatori sono completamente all'oscuro degli adempimenti, lavorano così ad occhio, anche se nell'allegato F, l'allegato F obbligatorio per leggi sul denuncia bisogna fare alla provincia al comune, bisogna scrivere c'è o non c'è una pratica ISTE, c'è o non c'è una pratica di metto la Francesco, guardi, la sentiamo tra l'altro anche un po' male, però il nocciolo della questione lo abbiamo compreso. Giro la domanda a Luca Falco, che magari non sarà neanche stato tanto contento di sentire la perplessità di un addetto ai lavori che dice c'è proprio un ambito di intervento nel quale noi tecnici non sappiamo niente. Le caldaie che sono di dimensioni e di potenza un po' superiore rispetto a quelle che sono all'interno delle nostre abitazioni, Luca Falco, oltre i 35 kWh, sì. Sì, però, è un problema di non trascurabile importanza, visto che gran parte delle città italiane sono riscaldate proprio con impianti centralizzati, quindi con queste caldaie. Allora, gli impianti centralizzati mediamente sono i più controllati rispetto alle caldaiette, perché essendo che spesso riscaldano, sono al servizio di un condominio dove viene demandato l'incarico a un terzo responsabile, queste caldaie seguono un iter molto più restrittivo. Infatti. Purtroppo spesso alcune pratiche che devono arrivare dagli enti pubblici ritardano, perché sono un attimino lenti gli enti pubblici a rispondere. Quindi a volte le pratiche ISPES piuttosto che dei vigili del fuoco in determinati territori sono un pochino più lente ad arrivare, ma non per questo significa che tutti si lavori ad occhio. Perché poi tra l'altro, Falco, mi scusi, poi se torno ad interromperla, oltre alla disciplina nazionale, ogni regione naturalmente, date anche le condizioni climatiche molto diverse che abbiamo nel nostro paese, disciplina la questione anche in maniera sua? Assolutamente sì, per esempio la regione Lombardia prevede i controlli dell'efficienza energetica una volta ogni 2 anni, ci sono altre regioni in Italia, la regione Lombardia è quella che mi viene in mente più velocemente anche perché ha messo in piedi un sistema di catasto informatico dove tutti i manutentori inviano sul sistema informatico gli allegati relativi alla manutenzione direttamente al catasto, proprio per fare un ordine, una ricerca poi successiva sui consumi e per monitorare i consumi ai fini dell'efficienza energetica, quindi si è parecchio avanti sull'efficienza energetica, non si è proprio così a occhio. Poi noi stiamo lavorando e spingendo molto sulla formazione professionale come associazioni di categoria, tutte, non solo la Confartigianato. Io posso citare la Confartigianato perché la conosco direttamente, certo, ma credo che l'altra i 30-40 incontri l'anno distribuiti e organizzati solo dal nazionale, più quelli delle territoriali, quindi in realtà di formazione se ne fa tanta. Quindi rimaniamo un po' anche stupiti rispetto alla perplessità del nostro ascoltatore, che qualora fosse davvero un addetto ai lavori, forse magari non si è affidato abbastanza all'associazione di categoria. Può essere. Gli possiamo suggerire allora indubbiamente questa strada. Citava lei la regione Lombardia, Falco, lei è ligure se non sbaglio, perché c'è un ascoltatore che scrive: in Liguria ci sono obblighi specifici per quanto riguarda la caldaia? Allora, in Liguria il decreto regionale che recepisce quello nazionale rimanda alle tempistiche nazionali. E l'unica cosa è che poi ci sono gli enti locali, quindi province piuttosto che comuni superiori ai 40.000 abitanti, che anche loro vanno a regolamentare ulteriormente applicazione del decreto legislativo, quindi bisognerebbe sapere esattamente quale comune e quale provincia. Benissimo, allora stavo intanto guardando i numerosissimi messaggi che sono in arrivo. Ovviamente noi vorremmo, come dire, cercare di individuare qualche questione di carattere generale che possa dare una risposta a tutti. Vedo che invece ognuno chiaramente fa lo specifico riferimento al proprio appartamento, giustamente, oppure alla propria sfera professionale. Cercheremo di accontentarvi se ce la facciamo. Intanto andiamo a sentire anche Luisa da Padova. Benvenuta. Salve, grazie dello spazio. Brevemente, a me interessava sapere questa, in merito a questa questione. Io ho acquistato una casa circa 3 anni fa, una casa abbastanza grande, sono circa 500 metri quadri, e però non c'era il libretto di caldaia. Noi non siamo intervenuti subito in tutte le nostre ristrutturazioni, abbiamo un po' messo a margine questo problema, adesso io vorrei affrontarlo. Ecco, volevo sapere cosa devo fare, se ancora in sezioni per questi anni pregressi oppure se a chi mi devo rivolgere. Benissimo Luisa, allora io intanto metto alla prova l'associazione dei consumatori, poi sentiamo anche il tecnico, l'addetto ai lavori. Isolani, ci vuole aiutare a... Sì, certamente, è una cosa molto semplice, lei deve chiamare un tecnico abilitato per fare il controllo dell'efficienza energetica della sua caldaia o centrale termica, quello che sarà, e dichiarando che non ha il libretto d'impianto, e sarà il tecnico che, mentre fa i controlli e la manutenzione che sono necessarie, poi le comprerà anche il libretto d'impianto. A me non pare che possano esserci delle sanzioni per il pregresso. Ma per esempio, qualora adesso, visto che siamo molto attenti anche a dare la pagella energetica alle nostre abitazioni, abbiamo la norma che ci obbliga anche a presentare questa pagella nel rogito, nell'atto di compravendita delle case, per esempio, esiste questo obbligo anche di consegnare il libretto sullo stato di salute dell'impianto in compravendita di abitazione? Isolani? Non mi pare che ci sia questo obbligo nella compravendita. Magari possiamo però chiederlo, qualora magari l'impianto fosse non proprio vetusto. Magari. Però già la certificazione energetica, che dovrebbe essere allegata, perché lei, come sapete, c'è purtroppo una norma della finanziaria dello scorso anno che ha tolto questo obbligo, e l'Italia ora è sotto inchiesta della Commissione Europea perché non rispetta la direttiva. Ci sono alcune regioni che hanno rimediato e hanno riconfermato questo obbligo, però quando nelle compraventi che c'era e nelle locazioni che dovrebbe esserci la consegna della certificazione energetica, nella certificazione energetica c'è anche scritto, oltre al consumo medio della casa e dai suggerimenti per migliorare l'efficienza energetica, c'è scritto anche la situazione dell'impianto termico. Certo. Falco, lei voleva intervenire su questo caso della nostra ascoltatrice di Padova, che dice: avevo lasciato un po' a margine la questione dello stato di salute del mio impianto pur avendo acquistato la casa 3 anni fa, adesso però mi voglio mettere in regola. Si può rivolgere per esempio ad un'associazione di categoria Confartigianato CNA della propria città, e lì sicuramente troverà un tecnico per dargli delle risposte, visto che era proprio una delle richieste che avevamo fatto nel ministero perché questa cosa venisse inserita nella comunicazione. Vorrei ricordare a tutti che il libretto d'impianto non è una cosa leggera, è un documento importante che corrisponde alla carta d'identità dell'impianto, che va assolutamente conservato e non dovrebbe essere perso. Se affitto l'alloggio piuttosto effetto una compravendita di un alloggio, questi documenti devono seguire sempre assolutamente l'impianto. Possono essere duplicati, però diventa difficile recuperarne lo storico. Quindi è un documento molto molto importante a cui tutti i cittadini devono prestare la massima attenzione perché non sia perso. Proprio secondo noi è una cosa che va ricordata, che il Ministero dovrebbe far bene a ricordare, perché il responsabile dell'esercizio della manutenzione di un impianto termico è l'occupante o comunque chi utilizza l'impianto a qualsiasi titolo. Tra l'altro è un libretto dove vanno inserite anche tutte le note dei controlli periodici che si fanno, Falco? Perderlo è sicuramente un po' un problema, anche per noi se continuiamo ad abitare ovviamente nella casa dove siamo. La duplicazione, come si diceva, è piuttosto complicata, ma poi magari, che ne so, si può anche vanificare per questo un atto di compravendita di un'abitazione, perché magari il nostro acquirente possibile non si ritiene soddisfatto anche di questa situazione. Insomma, siccome i problemi che possono sorgere sono tanti, perché perderci questi documenti? Eccoci ritrovati. Allora, la manutenzione della caldaia, cosa dobbiamo fare, ogni quanto la dobbiamo fare, come dire, la questione è anche abbastanza dibattuta, come sapete ogni anno, soprattutto in questo periodo, come cercare anche, come dire, il tecnico accreditato e soprattutto quanto dobbiamo pretendere anche di spendere. Piero da Prato, prenderò a spunto magari la sua domanda per affrontare tutti questi punti. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Ci dica tutto. No, volevo un'informazione. Avevo sentito prima questo controllo annuale della caldaia. Sì. Non aveva una scadenza annuale, o poteva non avere una scadenza annuale, mentre a me mi richiede una scadenza annuale. Volevo sapere in effetti questa storia. Quanti anni ha intanto il suo impianto? Circa 15 anni. E quindi qui già siamo, come dire, di fronte ad un impianto che ha un po' di anni di vita, quindi evidentemente la tempistica del controllo è sicuramente differente rispetto a un impianto molto più recente. Isolani, posso girare da lei? Sì, dunque, se si tratta di una caldaia individuale, una caldaia autonoma di sotto i 35 kW, i controlli vanno fatti ogni 2 anni. Io volevo parlare un attimo dei costi, se mi permette. Sì, no, ma mi chiedo, allora, la manutenzione è sempre... Cioè, quando la dobbiamo fare annualmente? Perché io ancora allora non riesco a capire. Va fatta annualmente, per gli impianti a gas con potenza superiore a 35 kW. Ok. E poi addirittura con quelli oltre i 350 kW 2 volte all'anno. Quindi però parliamo sostanzialmente delle caldaie, delle centrali termiche dei condomini. Benissimo, però limitiamoci appunto alla questione della nostra, come dire, del nostro ambiente domestico, quindi della nostra casa. Dovrebbe essere quella di Piero inferiore ai 35 kW, quindi la caldaietta. Esatto. Per cui pur avendo 15 anni lui può limitarsi al controllo biennale. Allora chi è che gli impone di farlo annualmente? Sarà il suo immagino che sia il comune? Il suo installatore. Va bene. Luciano, io volevo parlare un attimo dei costi. Andiamo perché ai costi. Noi vorremmo far chiarezza anche su questo nel momento in cui, nell'accordo che abbiamo proposto all'associazione degli installatori, dopo aver elencato, diciamo, le operazioni che sono necessarie fare ad occhio in questo momento, la nostra valutazione è che se non ci sono manutenzioni straordinarie da fare, ma solo quelle previste, come dire, per garantire l'efficienza e la sicurezza normali, dovrebbe impiegarci intorno dai 30 ai 40 minuti per fare queste operazioni, 25, 20, cioè una cosa del genere. Quindi, se a nostro parere, il prezzo di questo intervento, se si tratta appunto di un intervento a manutenzione normale, non dovrebbe superare i 60-70 euro. Benissimo. E quindi se io il consiglio che do ai consumatori, se di cronometrare il tecnico, importi superiori, cercare altri installatori che facciano prezzi più equi. Benissimo. Falco, adesso vengo da lei per sentirla anche sul caso di Piero da Prato. Quindi se a Piero è stato, come dire, chiesto di fare la manutenzione ordinaria annuale, perché questo è quanto stabilisce l'installatore, il costruttore della caldaia che lui ha in casa, giusto? Esatto. Probabilmente la situazione del suo impianto consiglia di prevedere quel tipo di scadenza. Beh, giustamente, poi avendo anche 15 anni, Piero, magari adesso a prescindere da tutto, ma magari anche, come dire, il buon senso ci suggerisce forse di fare un controllo un po' più frequente, no? Rispetto ad un impianto nuovissimo, anche se poi non è detto che potrebbe essere sicuramente estremamente ben tenuto, però... Falco, sì, che allora, dice? Io vorrei solo dire una cosa, sì. L'allegato L, quello che prevede la tempistica di manutenzione, al primo punto cita esattamente questo: l'operazione di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Quindi è proprio una questione, un rapporto di fiducia che si deve instaurare tra il manutentore, l'installatore e il cittadino, perché insieme si segua l'impianto e si indichi, ma sempre finalizzando questo alla sicurezza. Certo. Quando deve essere controllato l'impianto. A me è capitato una mia cliente che vuole controllare tutto l'impianto tutti gli anni. Ah certo, ma uno può anche controllare ogni sei mesi, per carità del cielo. Ho trovato una perdita di gas nella rete che andava tra la caldaia e la cucina e non era l'anno dell'analisi di combustione, per cui se non avesse effettuato questo controllo annuale lei non si sarebbe accorta di avere l'impianto. Detto questo, che è un discorso sacrosanto, Falcon, a quello che io mi chiedo, perché poi naturalmente il dubbio viene, esiste un installatore, il costruttore di un qualsiasi marca di caldaia che dice nelle indicazioni sulla periodicità della manutenzione no, fatelo comunque ogni due anni? O comunque no, tutti? A me non risulta. Ecco, quindi è chiaro che gli addetti ai lavori dicono, e poi è anche legittimo che lo facciano per il proprio interesse, ma è chiaro che lo dicono fatelo tutti gli anni? Perché è una questione, poi uno dei controlli più importanti che viene fatto durante il controllo dell'impianto, perché non è un controllo della caldaia, ma è un controllo dell'impianto termico che comprende tutti gli organi, quindi la caldaia, i condotti fumo e l'impianto gas. Due dei controlli più importanti sono proprio quelli relativi ai condotti fumo, per verificare che non perdano e che non ci siano riflussi, ovvero che il monossido di carbonio non rientri in ambiente, e l'altro è che l'impianto gas non perda. Sono controlli fondamentali per la sicurezza, perché il monossido di carbonio è un veleno. Ma sì, certo, ma insomma poi teniamo anche conto del fatto che noi riaccendiamo il riscaldamento adesso, quindi chiaramente tutto l'impianto è sottoposto adesso ad uno stress differente, è stato spenta magari la caldaia per qualche mese se siamo andati via, insomma ci sono tante questioni da affrontare, per cui è chiaro che poi ognuno, come dire, percepisce la sicurezza della propria abitazione sicuramente in maniera diversa, ma speriamo insomma che lo standard di percezione sia piuttosto alto. Il costo indicato da Isolani, Falco, lei concorda sulle cifre e sui tempi anche del lavoro da fare che Adiconsum dava? Sui tempi varia molto in funzione dell'attrezzatura che uno utilizza, perché se uno ha attrezzatura automatica i tempi si possono ridurre, ma chiaramente l'attrezzatura automatica ha dei costi molto importanti. Però sa, io per esempio non saprei dare un giudizio sul tipo di attrezzatura con cui un tecnico viene a casa mia. Le do un'indicazione: per fare la prova di tenuta dell'impianto gas, seguendo le normative, se utilizzo l'apposito attrezzo impiego circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo, in assenza di questa attrezzatura impiego oltre un quarto d'ora. E siamo sempre a 60-70 euro, lavorando 20 minuti, lavorandone 40, lavorandone 2, ma tutto dipende dall'attrezzatura? Allora, consideri che l'attrezzatura media che ha il servizio di un manutentore sul proprio furgone, spero che questo non inciti i ladri a portarceli via, supera abbondantemente a volte 15.000 euro, proprio perché è attrezzatura particolare, che spesso è attrezzatura da laboratorio costruita per essere trasportata sul posto. È un lavoro molto tecnico, un lavoro dove c'è bisogno di molta formazione, quindi infatti, i costi che si pagano servono anche per compensare il tempo dedicato alla formazione. È chiaro che non va dato assolutamente 85 euro, 100 euro a un manutentore che arriva 10 minuti, va via, scarabocchia qualcosa su un foglio, quello assolutamente non va fatto. E io vorrei che i consumatori segnalassero assolutamente queste situazioni, perché non fanno altro che danneggiare i manutentori seri. Tutta la categoria. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, speriamo di aver dato indicazioni pratiche e utili ai nostri ascoltatori. C'era un'ascoltatrice, Angela da Milano, che voleva raccontarci che ha un riscaldamento di tipo autonomo, sempre revisionato, però ritiene che ci siano sempre meno tecnici che conoscono il tipo suo di riscaldamento. Angela, magari noi non facciamo tempo a farla intervenire, la richiamiamo poi in privato, ci racconterà bene il suo problema e noi saremo ben felici di girarlo il suo caso al nostro Luca Falco. Io ringrazio sia lui che Pieraldo Isolani. Salvadanaio torna domani. Grazie a tutti, buona giornata.